Egli premeva un nuovo rapporto di piacere. Egli correva al petto della donna amata, io ripeto, lezioni d'antenati e padri vecchi come le trombe delle scale. A che serve il mio essere di paglia se tu non vieni con la forca a spostarmi, se tu non vieni con le pinzette a spostarmi, con le pinzette della violenza a pregarmi, a spostarmi, a sposarmi in tutta la luce del sole, in tutta la sbieca luce del sole, in tutta la carità, in tutta la vita della nazione, in tutte le borgate difficilissime, in tutto il mondo putrame esiste un solo io, esiste un solo tu, esiste la carità.